L'ultima presentazione della serata, di questa giornata centrale del Festival di Letteratura Sociale. Abbiamo un ospite che ci accompagna sin dalla prima edizione, che tanto ha dato a questo festival, che ha sempre contribuito tanto con la sua presenza, con la sua voce in più luoghi. L'abbiamo invitato qua, in extremis, perché non sarebbe dovuto essere a Firenze, invece è riuscito a venire. È qui Vanni Santoni che ci presenta il suo ultimo lavoro, La scrittura non si insegna, edito da Minimum Fax. Benvenuto Vanni, grazie di essere qua. Grazie a voi, mi hanno fatto pure il tampone per esserci, sono pulito, quindi potete venire anche in prima fila se volete. E buonasera, grazie alla Polveriera, grazie al Festival di Letterature Sociali. E questo libro, La scrittura non si insegna, potrebbe essere considerato un libro un po' di nicchia, apparentemente, quindi cercherò di raccontarlo in modo che possa interessare anche fuori dalla nicchia, perché, come si capisce dal titolo, è un libro dedicato a chi vuole scrivere. Io, da quando mi sono messo a scrivere e da quando poi hanno iniziato a pubblicarmi i libri, mi sono confrontato con prima alcune, poi decine, poi centinaia, poi migliaia di persone che venivano a dirti: ma cosa devo fare per pubblicare un libro? E mi sono trovato anche a difendere persone dalle molte truffe che aleggiano nel mondo editoriale, o meglio pseudo editoriale, editori a pagamento e altre cose, finché un giorno non venne qualcuno dalla scuola del libro e mi disse: ma perché non ci fai un corso di scrittura? Io ai corsi di scrittura ero contrarissimo, perché avevo cominciato a scrivere in una rivista nata nell'ambito dell'occupazione del Bandone nel 2001 e poi cresciuta all'Elettro Più, quindi nata da degli ambienti militanti anche rispetto al lavoro artistico editoriale. Ero autodidatta e quindi credevo che, insomma, vuoi scrivere, leggi libri, fonda una rivista, fai, e poi prima o poi scriverai e pubblicherai. Questa era la mia idea, anzi la mia ideologia. Quindi quando mi chiesero di tenere un corso di scrittura, ero molto, molto perplesso, anche perché poi la mia opinione di situazioni tipo la Holden, in cui Alessandro Baricco fa il bagno del denaro con i soldi delle famiglie, non mi piaceva, non mi sembrava che si vendesse un po' un sogno, grande merda. E soprattutto perché dopo non c'è nessuna garanzia che tu possa veramente pubblicare o pubblicare per una casa editrice importante. Di fatto il mondo dell'editoria è regolato da dei meccanismi che puoi controllare, ma fino a un certo punto. Insomma, non è come diventare un dottore e fare l'università, poi fai la specializzazione, poi fai il praticantato in ospedale e poi sei un dottore. No, lo scrittore alla fine è determinato anche da un momento del tutto non prevedibile in cui un editore importante ti chiama e ti dà dei soldi, oppure non succede. E facendo ormai questo mestiere da 12 anni so benissimo che ci sono tantissime persone brave a cui questa cosa non è accaduta, così come tantissimi cialtroni a cui invece questa cosa è accaduta, d'accordo? Quindi c'è una variabile di fortuna che è molto difficile da controllare, e dunque già una scuola di scrittura mi sembra un po' eticamente pelosa, perché non potrà mai comunque controllare questo fattore. È vero dall'altro lato che come si fa a andare contro all'avversa sorte? Moltiplicando i tentativi. Cioè, se te hai sculo, però se tenti 50 volte, come quelli che fanno i sistemi col superenalotto, prima o poi magari ti dice bene, a meno che tu non sia sfortunatissimo. E quindi alla fine l'unica vera risposta che io potevo dare a chi mi chiedeva come posso pubblicare era: scrivi, scrivi, scrivi. Se fai un libro è quasi certo che non lo pubblicherai, però magari se ne fai 10. E pensavano che li pigliassi un po' per il culo quando gli dicevo: scrivi 10 romanzi se ne vuoi pubblicare uno, no? Oppure tipo: pubblica 100 racconti su una rivista e vedrai che poi ti chiamano a fare un libro. Sembravano cose un po' balzane, però in realtà erano le uniche cose che funzionavano, perché tu puoi forzare questi meccanismi soltanto con la quantità, perché c'è un altro dato, che la qualità conta, ma fino a un certo punto. Cioè, se tu hai un buon libro, è più probabile che venga pubblicato rispetto a un brutto libro, e ancora vale il principio che se un libro è proprio una merda, non lo pubblichi, a meno che tu non sia già famoso prima per altri motivi. Però di solito un buon libro non basta. Quello che invece faceva la differenza, io vedevo e rivedevo, era fare un buon libro ma avere anche la tigna per farne un secondo, per farne un terzo, per farne un quarto, se te li rifiutavano. E da questa cosa è nata... Merlo, ti posso dare un po' di vino? Che non mi hanno portato... Grazie. Questo è... Anche questo? Non è il mio vino. Grazie, c'ho il referto stampato. E curiosamente questa cosa, vedi, si sono sentiti chiamati in causa, sapendo, e mi sarei arenato, grazie, penosamente, senza bere. Da questo spunto iniziai a pensare che gli posso insegnare, perché non volevo fare il corso di scrittura, ma volevo i soldi che mi promettevano per fare il corso di scrittura. E quindi mi sono proprio chiesto quella notte: come faccio a incassare questo denaro e non violare i miei ideali? Ho ponderato, alla fine mi sono detto: forse l'unica cosa che si può insegnare legittimamente è a ragionare come uno scrittore. Perché questo? Perché se ci pensate, tutti questi corsi, eppure esistono e sono popolarissimi, in cui ti pretendono di insegnare delle singole cose, tipo come fare un incipit, come fare un personaggio, sono assurdi, perché chiunque abbia letto più di 5 libri sa benissimo che un personaggio è funzione della narrazione di cui fa parte. Se voi prendete, non so, un libro di Thomas Mann, e prendete i Buddenbrock, vedete che i personaggi vengono descritti fin nel tipo di materiale di cui sono fatti i bottoni. Se voi pigliate Beckett, non te dice manco se quello è biondo o moro, alto o basso. Perché? Perché ovviamente Mann vuole descrivere un certo contesto sociale e storico, e quindi questi dati di abbigliamento sono importanti. Beckett parla soltanto in termini esistenziali e quindi è irrilevante. Però cosa c'è dietro a questi due poli? Il fatto che non c'è un modo, o neanche 6 o 10 modi per fare bene un personaggio, ce ne sono infiniti, e te devi imparare a intuire il modo in cui si fa il personaggio giusto per la tua storia. Quindi non si può insegnare il buon incipit. Che vuol dire? Non vuol dire un cazzo, perché ovviamente un buon incipit è un buon incipit per il suo libro, non è che c'è la formuletta per il buon incipit. Figuriamoci degli archi narrativi. Forse avete sentito parlare del viaggio dell'eroe. Ecco, il viaggio dell'eroe di Vogler è un saggio di narratologia che ha prodotto una quantità di fantasy di merda incalcolabile, perché ovviamente tutti hanno creduto: ah, qua c'è la formula per organizzare un fantasy. Hanno fatto questi fantasy, uno più brutto dell'altro, quindi non si poteva fare. Che si poteva fare? Pondera, alla fine si potevano fare due cose fondamentalmente. Si poteva insegnare a leggere, perché la prima cosa che ho capito quando sono entrato da docente in una scuola di scrittura è stato che molti si erano iscritti, avevano investito una quantità considerevole di tempo e denaro, gente, pensate, iscritta a un biennio, no? Quindi che c'ha intenzioni serie. Poi fai un esempio e dici: sì, per esempio Dostoevsky, e tutti ti guardano come se tu avessi nominato uno scrittore di nicchia, no? E mi ero reso conto che curiosamente nel campo degli studenti di scrittura c'era una preparazione letteraria molto bassa, no? Il che è strano, perché anni dopo mi è capitato di fare un corso come esterno in la divisione cinema di questa stessa scuola, e se andavi da quelli che volevano fare registi, se dicevi Fellini o Kubrick o Berryman, e sapevano benissimo di cosa tu stessi parlando, no? Mentre i classici della letteratura erano in qualche modo sconosciuti a gente di 21-22 anni che si erano iscritti per 2 anni a una scuola di scrittura. E quindi insegnare a scrivere, dunque dieta, questo è il primo punto della scrittura non si insegna, cioè portare le persone a alzare il tasso proteico delle loro letture, cioè segare tutte le cose troppo facili, e andare subito a brutto muso verso libri difficilissimi dei maggiori autori, cioè rifarsi una base, allargare le spalle, far aprire i polmoni, no? Come quando tiri lo schiaffo nel culo al bambino appena nato. In questo modo cambi il tuo rapporto con la materia testuale, cioè cambi il tuo rapporto con il potenziale del mezzo romanzesco. Cioè, quando io normalmente comincio un corso di scrittura, dico per prima cosa Marcel Proust, La ricerca del tempo perduto, James Joyce, Ulisse, e gli studenti pensano che io stia provocando. In effetti sto provocando, ma non nel senso in cui pensano loro, perché non è che io lo sto dicendo per fare i muscoli o dargli di ignoranti. Gli sto dicendo: Ciccio, se te vuoi fare il romanziere e non hai letto quelli che sono i due massimi picchi dell'arte che vuoi praticare, lo vai. Dopodiché però faccio un salto anche abbastanza significativo, perché effettivamente la preparazione potenziale è infinita, nel senso, uno potrebbe benissimo dire che se non hai letto tutti i classici greci e latini non puoi fare. No. Fa o no? No, no. Sì? Ok. E ci avrebbe pure ragione. Il problema è che se da un lato si può fare i puristi, dall'altro lato bisogna anche avere l'onestà intellettuale di capire che chi si iscrive a un corso di scrittura vorrebbe, nella migliore delle ipotesi, essere messo in condizione nel giro di qualche anno a scrivere un libro abbastanza buono da venire pubblicato. Questo fa sì che io non posso dirgli: prenditi una laurea in lettere, un dottorato in comparatistica e un altro aggiuntivo in antichistica, perché ci vorrebbero 20 anni, e anche perché lui potrebbe benissimo dire: ma guarda, c'è lo scrittore X o Y che non ha niente di tutto questo ed è pubblicato da Einaudi o Mondadori. E effettivamente esempi di questo tipo ci sono. Quindi faccio un salto in avanti, diciamo, dai grandi romanzi dell'Ottocento ai grandi classici del modernismo, e salto subito a libri come 2666 di Bolaño, Underworld di De Lillo, Europe Central di Volman, Abbacinante di Carteresco, Infiniti Gesti di Wallace. Cosa sono sti libri? Sti libri sono tutti libri, grandissimi libri contemporanei, difficili e lunghissimi, no? Sono dei mattoni mostruosi che già se ce la fai a finirli vuol dire che sei tagliato per il mestiere, no? Se ce la fai a finirli tutti e cinque, anche se non eri tagliato, uno scrittore ci diventi. Questo per metterli un po' di fronte a quello che è il fronte d'onda del romanzo oggi, no? Cioè capire cosa può fare oggi sto romanzo. E a quel punto chi passa queste forche caudine, anche apparentemente iper severe, probabilmente c'ha le banane per farcela. Secondo punto, la disciplina. C'è quest'altra questione: bisogna scrivere tutti i giorni. Questa è un'altra questione che sembra ovvia. Questo è stato definito da alcuni recensori un libro molto saggio, ma perché in realtà è molto banale. Cioè, ti sto dicendo che per scrivere libri devi leggere i libri e poi scrivere. Uno dice: grazie al cazzo. La cosa curiosa è che c'è gente magari disposta a spendere 20.000 euro per una scuola di scrittura e non fa queste due cose. Il secondo punto, appunto, è scrivere tutti i giorni, sta famosa disciplina. E che dire, non è lavorismo. Una volta un noto intellettuale e curatore di Pesaro, che alcuni qua conoscono, mi accusò di essere uno sporco lavorista e uno schifoso calvinista per questa idea di lavorare tutti i giorni, ma in realtà io preferirei non lavorare. Il punto è che se te scrivi tutti i giorni, e quando dico tutti i giorni, tutti i giorni, succede una cosa, proprio a livello cognitivo. Cioè, a un certo punto, dopo un mese, mettiamo, tu cominci a pensare al romanzo a cui stai lavorando anche quando fai altre cose. Cioè, entri in una sorta di flusso. Improvvisamente ti stai a fare la spesa e pensi a quello che fanno i personaggi. Sta a parcheggiare e pensi a quello che fanno i personaggi. Ti stai per addormentare e pensi a quello che fanno i personaggi. Ti stai mettendo a letto i marmocchi e pensi a cosa fanno i personaggi. Quando succede questo, succede qualcosa di magico, perché quando poi ti metterai a scrivere, non starai scrivendo, starai trascrivendo, perché le idee le hai già buttate giù, magari hai preso un appunto vocale, hai preso due appunti in un taccuino. Quindi quando ti metti a scrivere, se trascrivi, improvvisamente diventa facile, perché se te non c'hai neanche l'idea di cosa scrivere, è chiaro che ti serve, mi metto a scrivere, serve minimo un arco di tempo di 8 ore per mettere un po' le idee in ordine e buttarci qualcosa. Se invece devi trascrivere, improvvisamente, anche se c'hai solo un'ora libera, quell'ora libera serve a qualcosa, perché due pagine le butti giù. E questo è ciò che cambia tutto, perché intanto il libro va avanti, prendi coraggio e procedi. Diceva Dorothy Parker, che era una grande scrittrice ma anche una grande battutista: io giudico un'altra scrittrice da quante pagine fa nei giorni di merda. Ora, dietro a questa battuta apparente non è solo una buttata, c'è una grande verità. Perché se tu sei un professionista e sei in flusso, anche in un giorno in cui c'hai la febbre, te ne è successo di tutto, c'hai le beghe, anche quella mezz'ora schifosa, risicata che hai liberato, la puoi usare, perché devi solo trascrivere, mentre un non professionista in quella mezz'ora non riuscirà a far niente. Dunque la disciplina. Di fatto sto libro, in realtà, non vi mento, finirebbe lì, cioè a pagina 40. Poi, siccome 40 pagine non bastavano per fare un libro, ho provato ad aggiungerci alcuni piccoli elementi e dei consigli, d'accordo? E anche questi consigli sembrano banali, ma non lo sono. Il primo lo conosce bene qui presente Gregorio Macini, mi ha aiutato a stilare questa lista, l'abbiamo stilata insieme, sappilo. E il primo consiglio, la prima cosa da non fare se vuoi scrivere un libro è cadere nei cliché. E anche qua uno può dire un grandissimo grazie al cazzo. Lo può dire, ma poi, quando tu vai a vedere, io ho fatto per 7 anni anche l'editor e quindi ho manipolato e vagliato migliaia di manoscritti, quando questi manoscritti li vai a vedere scopri che quasi tutti usano i cliché. Quando con Gregorio lavoravamo a un romanzo storico collettivo che si chiama In territorio nemico, che peraltro tornerà il 24 ottobre ovunque, però al di là di questo, noi ci trovavamo a gestire centinaia, migliaia di schede scritte da scrittori dilettanti. Molte di queste schede erano scritte male. Noi, che eravamo a nostra volta dilettanti, anche se forse un po' più motivati della media, dicevamo, che cosa hanno queste schede di scritto male? Perché male? Perché effettivamente, se ci pensate, quando si legge un testo letterario è facile vedere se è scritto bene o è scritto male. Quello lo vedi subito. Però dire perché è scritto bene o perché è scritto male diventa molto più complicato. Ecco, nel caso dei testi scritti male, noi avevamo visto una ricorrenza di espressioni di questo tipo: a folle velocità, a intervalli regolari, acre odore, ampio salone, arcana bellezza, attesa snervante, barlume di razionalità, basso muro a secco, bestemmie irriferibili, biancore spettrale, bizzarra sensazione, caldo abbraccio, interminabili secondi, interminabili minuti, irriducibile romantico, spesso strato, stresso vano. Insomma, espressioni in cui c'era uno strano accostamento fra aggettivo e sostantivo, un po' pretenzioso, no? Cioè del tipo voglio fare il letterario, e che al tempo stesso erano estremamente svuotate di senso, no? Cioè acre odore suona letterario, ma di fatto non vuol dire niente. Non vuol dire niente non perché non voglia dire niente. Quando la prima volta nel 1790 qualcuno ha scritto acre odore, era una gran figata. Il problema è che dopo che migliaia di persone lo hanno copiato è diventata un'espressione cliché, come dire secco come un chiodo o teso come una corda di violino, un qualcosa che è pretenzioso e in ultimo vuoto. Le abbiamo chiamate banality, con la crasi fra banalità e fatality, quelle di Mortal Kombat, per dire che l'unica cosa da fare delle banality è strapparle come il cuore a un nemico sconfitto, e partendo da questo suggerisco di evitarlo. Seconda cosa da non fare, forse ancora più banale e però ancora più pervasiva: non scrivere cose noiose. Uno dice, anche qua sapete cosa dice, grazie alla straminchia, le cose noiose. Ma anche lì, se tu guardi i manoscritti che vengono scartati in qualunque casa editrice, tolti quell'80% di manoscritti che non stanno né in cielo né in terra perché non c'è la sintassi, la grammatica o sono deliranti, il rimanente 20, che comunque viene scartato quasi tutto, di cui viene scartato il 19,9 periodico, è magari scritto decorosamente, non usa cliché, ma è mortalmente noioso. Che vuol dire sta noia? Anche questo sembra facile dirlo, dici sto libro è noioso, smetto di leggerlo, abbiamo fatto tutti spesso. Però poi dire perché è noioso, anche qua, di solito sta noia viene da una incredibile, sorprendente a volte assenza di specificità. cioè la stanza d'albergo è solo una stanza d'albergo, la nave è solo una nave, la città è solo una città, cioè sono dei luoghi vuoti, non specifici, a volte l'autore crede anche di aver raggiunto degli assoluti, ma che in realtà non dicono nulla, primo punto. Secondo punto, assenza di conflitto, d'accordo? Il conflitto è il sale della narrativa, si dice un gatto va su un tappeto, non è una storia, un gatto va sul tappeto di un altro gatto, è una storia, perché? Probabilmente perché quell'altro gatto si incazzerà, nel senso che il conflitto genera automaticamente tensione narrativa. Questo non vuol dire necessariamente che si debbano fare solo libri alla Elmore Leonard. È chiaro che in un libro di Elmore Leonard un tizio viene legato a una sedia, lo torturano con una fiamma ossidrica, c'è del conflitto, e infatti è interessante. Ma se voi andate a vedere anche libri in cui nessuno viene torturato con una fiamma ossidica, come La Recherche di Proust, vedete che in realtà là il conflitto c'è, perché in realtà c'è un conflitto interiore, il personaggio da un lato analizza e vede tutti i difetti orrendi di quel mondo delle corti, peraltro al tramonto francesi, ma dall'altro ne è attiratissimo e vorrebbe farne parte, d'accordo? Cioè ci sono proprio degli elementi di conflitto lì molto più interiorizzati, che sono quelli che mandano avanti la narrazione. La terza cosa da non fare, revisione. E qua mi piace molto perché è pieno di corsi che dicono scrivere e riscrivere, fai molte revisioni. Però la roba interessante è l'opposto. Nel senso che è vero che quando te scrivi un libro e l'hai finito, dovrai fare 30-40 riletture, a volte riscrivere interi pezzi, effettivamente scrivere e riscrivere. Ma una cosa più sottile che non tutti beccano è che quando fai le riletture puoi anche fare dei danni mostruosi, specialmente se rileggi in corso d'opera. Diceva Walter Benjamin che lui, quando veniva invitato a fare una lettura pubblica, insultava chi lo aveva invitato, oltre ovviamente a rifiutare. Diceva, come mai? Diceva, perché se devo leggere una cosa di un mio libro che è già uscito, non mi interessa, perché se ci trovo un difetto, visto che è già uscito, soffrirò. Se invece leggo una cosa di un libro che sto scrivendo, quel pezzetto verrà coagulato da due ulteriori giri. Questa di Benjamin è molto sottile, nel senso che effettivamente se te prendi un pezzo di un libro che sta a scrivere e lo porti a una lettura come potrebbe essere qua, che fai? Non lo rileggi una volta a casa per vedere che va tanto bene? Per forza, poi lo stampi, magari prima di leggerlo lo rileggi ancora una volta con la penna in mano, poi quando lo leggi pubblicamente lo rileggi perché lo stai leggendo ad alta voce, e l'alta voce è un'altra forma di revisione. Una volta hai fatto questi tre giri, che al resto del tuo libro mancano, è come se il tuo libro fosse una serie di statuette di argilla di cui una è stata cotta. A quel punto quella o la piglia a martellate o non verrà mai resa nuovamente malleabile rispetto a eventuali cambiamenti di largo spettro sul libro. E quindi ti sei fregato un pezzo del libro. Io avevo scritto una volta un libro che si chiamava Europa, rimasto ahimè inedito, in cui parlavo di molte cose, ma fra cui anche di avventure di reivettari negli anni 90. E quel libro rimase inedito, io soffrii molto, poi nel 2013 la terza mi disse, mi fai un libro sui rave? E io, oltre a essere contentissimo perché finalmente potevo rendere utili tutti gli anni passati a schetaminare, là sotto potevo anche riutilizzare quelle pagine avevo messo in Europa nel libro precedente. Sciocco fui, perché in realtà quelle pagine già scritte non erano in alcun modo adattabili, cioè lo potevi fare, però ci dovevi investire tante di quelle ore di lavoro che tanto valeva ripartire dall'esperienza originaria a cui erano ispirate e riscriverle, perché adattarle ai nuovi personaggi, al nuovo flusso del romanzo, era uno sbatto incredibile e ci perdevi tempo, quindi ho dovuto riscrivere tutto. Da lì ho imparato che revisionare in corso d'opera è una cazzata. E come mai è una cazzata? E come mai la facciamo questa cazzata? Io credo che la facciamo a causa di un imprinting che ci hanno dato a scuola. Rileggi prima di consegnare, no? La brutta e poi la bella. Questi principi, e se si parla del compito di italiano, sono sensati. Quando stai facendo un'opera di lungo periodo, in realtà sono dannosi, perché te alla fine di una giornata di scrittura consegni a te stesso, si potrebbe dire, no? Archivi. E quindi io per anni cosa facevo? Rileggevo e poi passavo a quello dopo, inconsapevolmente coagulando. E quindi ho capito che in realtà sì, scrivere e riscrivere, ma te devi fare 1000 riscritture solo quando tutto il blob è finito. Butta il fieno in cascina, fregatene se sbagli le date, se ora al presente, ora al passato, se in prima persona e poi in terza, non importa, tutte ste robe le cambi tranquillamente dopo. Butta la roba, quando è finito rileggi, perché rileggere e curare un qualcosa in corso d'opera lo renderà diverso dal resto e quindi dopo può creare qualche problemino. Ultima cosa: ostensione e pubblicazione, la più interessante di tutti. Quando faccio un corso di scrittura dico delle cose importantissime e tutti dormono, poi dico ora parliamo di pubblicazione, improvvisamente sembra si siano fatti una raglia di speed, tutti attentissimi così, perché poi in ultimo non gli posso dar torto, si scherza, ma è chiaro che chi si iscrive a un corso di scrittura è perché sogna di pubblicare un libro e quindi c'ha anche ragione a stare più attento là. Ma al di là del fatto che quel punto lì ci arrivi solo se hai capito quelli precedenti e soprattutto se non ti imparanoi sull'editoria, tutti avremo sentito dire almeno una volta nella vita robe del tipo ma hanno pubblicato il libro di Totti di Sfera e Basta e non pubblicano il mio. Sì, ma non è che il libro di Totti è stato pubblicato perché una commissione di letterati ha deciso che era bello. L'hanno pubblicato a buio perché tanto la gente lo compra perché è fan di Totti. Quindi è come se fosse una maglietta il libro di Totti o di Sfera e Basta o del Papa, quello che vuoi. Cioè, se è già famoso, è un gadget di quel personaggio famoso. Quindi non ti confrontare con loro, confrontati con la parte di mercato che va ai veri lettori di libri. Ecco, a quelli ci arrivi se scrivi qualcosa che è abbastanza buono da far presumere un povero editore sempre in rosso che magari un migliaio di copie a quelli gli si vendono. Come si fa per farlo? Una cosa che stupirà tutti, ma che invece è ovvia fin dai tempi di Umberto Eco, è che è molto meglio non mandare manoscritti nelle case editrici, che sono un po' tipo messaggi in bottiglia del naufrago, ma scrivere tantissime cose sulle riviste, perché le case editrici, e questo lo sanno in pochi, fanno scouting e cercano la gente. Provate a immaginare questa storia: c'è un tizio che dice oh guarda, sono abbastanza forte a giocare a pallone, voglio sfondare nel calcio. Sto tipo si compra una maglietta, un par di pantaloncini corti e si mette a sedere davanti al Franchi aspettando che passi uomo a fargli un triennale da 8 milioni di euro l'anno. Questo è un povero pazzo, no? Ecco, un tizio che manda un manoscritto a Mondadori, Einaudi o Feltrinelli è uguale, solo che conosciamo meno i meccanismi di selezione del mondo editoriale e quindi ci sembra meno pazzo. Ma è uguale, perché il calcio, e tutti sanno come funziona, può giocare in Serie A? Beh, gioca nelle giovanili della squadra del tuo paese, fa una bella stagione, vieni preso da una squadra di una serie minore, fa un'altra bella stagione, c'è l'osservatore, ti prende, fai una prova in una squadra di Serie C, giochi benissimo, vai in Serie B, poi alla fine ti pigliano in Serie A. Ecco. Quel canale, riviste letterarie, piccoli editori, vincere qualche premio per un buon riscontro critico o vendere moltissimo una piccola, e così è esattamente lo stesso che porta alla pubblicazione per un grande editore. E quindi in questo libro cerco di spiegare quali sono le cose da fare. Mi dicevano oggi, deridendomi i miei amici, che questo libro ha generato migliaia di riviste, una più farneticante dell'altra, perché questa cosa è stata interiorizzata e quindi stanno venendo fondate tantissime riviste letterarie. E io in realtà dico, bene, è esattamente quello che bisogna fare. Bene, detto questo, non voglio togliere altro tempo alle famose letture dantesche, anche perché ci sarò di nuovo pure io. E la scrittura non si insegna, minimum fax, se lo comprate qui e non su Amazon che Gesù vi vede, sosterrete una libreria indipendente e vi lascio alle letture dantesche, grazie.